l'intento però fordista era fermare la macchina produttiva incrociando le braccia. Qual è lo sciopero del precario? Blocco dei flussi di informazione di merci che attraversano la metropoli, e quindi le merci più rilevanti nell'economia della conoscenza sono le menti delle persone, i corpi che attraversano, e quindi dallo shop surfing fino alla grande street parade di San Precario che dalle due da Piazza Repubblica attraversa le vie della capitale. Abbiamo fatto l'ultima assemblea di preparazione a Milano insieme a Precog e alla Rete per il Reddito, sono venuti sui compagni di Acrobax e di Sapienza Pirata che ci hanno spiegato cosa si muove, insomma sono attese decine di migliaia di persone. Penso anche che le sorelle e i fratelli di Roma vorranno dare una risposta forte anche alla disperazione che ci ha assalito tutti con la riconferma del buscismo per altri 4 anni, insomma. Voglio dire, i precari devono sconfiggere il buscismo casalingo, quale migliore occasione per far scendere in campo la grande alleanza precaria, ecco. Abbiamo visto con lo sciopero dei tranvieri l'anno scorso a Milano quale potrebbe essere la potenza di gruppi radicali in snodi vulnerabili della metropoli. Purtroppo, dopo un inizio molto promettente l'anno scorso in cui movimenti e tranvieri si sono saldati in tutta Italia, come dire, bisogna prendere atto che insomma, i lavoratori dei trasporti hanno preferito insomma, diciamo, continuare su una strada sindacale più classica. Cioè, non è che ne voglio fargliene un torto, certo che però si è persa una possibilità. Dopo la May Day, quindi un nuovo concetto di parade metropolitana, vero? Certo, completamente. Diciamo da 3-4 anni a questa parte, da Roma, Milano, Bologna, Bari e Venezia, si sono fatte sperimentazioni in cui l'aspetto creativo della politica, quello che una volta era separato e anche subordinato diciamo all'autonomia vera, no? L'autonomia creativa doveva stare sotto, invece come dire, ha preso un'egemonia di tipo rappresentativo e comunicativo del nuovo soggetto. Ora però certo non possiamo pensare che solo le tecniche di advertising però ci possono far uscire dalla situazione, ancorché io sono per esempio con altri compagni siamo molto più impegnati sul fronte della comunicazione magari che della lotta sindacale, però mi sembra che oggi la sfida non sia quello di mettere in campo nuova creatività ma nuove forme organizzative che diano conto insomma del fermento e insomma di una questione abnorme che sta letteralmente immiserendo milioni e milioni di persone in Italia. Quindi insomma abbiamo visto che col lancio dei punti San Precario in tutta Italia possiamo darci anche una struttura di solidarietà individuale, di autodifesa collettiva, questo ha già messo il fuoco al culo ai sindacati concertativi perché stanno sviluppando strutture simili, certo che deve emergere con più forza una rete nazionale del precariato che possa effettivamente contrastare, no, la deriva moderata che si sta respirando.